dolce sposa, eccoti alfine nel mio paterno albergo. E dov'è il padre? Dov'è la madre tua? Forse a Caria per il cane comune a noi la fretta. E la scelta da me più corta via, allontanò da noi. Caro Tobia, ridi, cerca intorno, impaziente al par di te, son io, desseri al piede. Mia degna sposa, inubbidirti, io sento il contento maggior d'ogni contento.